Rock Way, l'onda del rock. Otto minuti dopo le 22, ben trovati su Blu Radio Veneto. L'appuntamento è quello classico ormai da anni del mercoledì sera con Rock Wave Live, la musica dal vivo dai nostri studi. Intanto passo subito la linea a Maurizio, che presenterà il gruppo di questa sera. Maurizio. Sì, buonasera Sergio, buonasera ai nostri ascoltatori. Sì, una musica che viene da Saturno stasera, o no? Buonasera ragazzi. Viene da lontano. Viene buonasera, da lontano. Buonasera a tutti. Grazie. Ricordiamo i saluti da Saturno. Esattamente, saluti da Saturno, che è la band, questo progetto tuo, qui di Mirko Mariani, assieme a altri due tuoi colleghi, un Mirko con la K e un Bruno praticamente. E un Bruno senza K. E uno senza K. Come va ragazzi? Ma va bene, siamo qua, una bella radio, gente gentile, ospitale, siamo felicissimi, guarda. Poi abbiamo degli strumenti molto particolari, adesso le telecamere poi saranno inquadrate, abbiamo una tastiera giocattolo, come si chiama quella tastiera antica? Si chiama Optigan. Optigan, del 1960. Bravo, è praticamente il padre dei campionatori moderni. Benissimo. Registrava delle orchestre, insomma. Poi abbiamo una tastiera dietro di te. Un pianofortino elettrico. Esattamente, poi abbiamo una chitarra elettrica. Elettrica. E poi abbiamo una chitarra acustica e abbiamo la vostra musica. E la voce di Bruno. E la voce di Bruno soprattutto. Sì, sì, sì, sì. Dove è nato il progetto, Mirko? Ma guarda, è nato un anno fa, precisamente un anno fa. Siamo a novembre, il disco è stato fatto a novembre. È nato, io avevo creato un percorso mio personale, una ricerca su degli strumenti particolari, come tu citavi prima. Inusuali abbiamo detto. Inusuali, bravo, inusuali. E questa cosa qui naturalmente doveva andare a finire in un disco, insomma la ricerca da qualche parte deve andare a finire. E a novembre dell'anno scorso mi sono trovato in un teatrino in Romagna, in 15 giorni ho registrato questo disco. E lì è nato il progetto, è nato tutto da lì, diciamo. Via. Dopo il disco è uscito a fine settembre di quest'anno, è uscito e adesso siamo qua con voi. Però tu avevi avuto altri progetti, uno erano i Mazapegul, mi pare. Mazapegul, sì. Scusate la pronuncia, l'ho sbagliata. Sì. Insieme a Valerio Corzani, che era dei Mau Mau, abbiamo fatto una cosa insieme. Abbiamo fatto due dischi, tra l'altro il primo era distribuito da Sony, erano altri tempi. Era più facile, e si vendevano anche altri numeri, giravano per le orecchie. E questi erano due dischi, e poi hai fondato anche i Down by Law, sì, esattamente. Una leggera ispirazione a Tom Waits, Jarmusch, si sente. Esatto. E poi per arrivare a Saturno, perché qui non mi trovavo bene, ho deciso di andare da un'altra parte. Cioè, è un progetto un po' particolare. Qualcuno ha scritto: sì, l'orchestra è un'orchestra così. Sì, c'è un'orchestra, ma un'orchestra che parte dalle tue idee, che si sviluppa assieme a Bruno e assieme a Mirko, sì, in determinati canoni, su determinati orizzonti, per lo più acustici praticamente. Sì, diciamo che il termine giusto che ho trovato dopo tanti termini che ho tirato fuori, il più giusto mi sembra elettromeccanico. Esatto, elettromeccanico. Elettromeccanico mi sembra giusto perché, come vedi, la maggiore di questi strumenti hanno bisogno della corrente. Il pianofortino qua no, l'Optigan sì, però diciamo sono strumenti alla fine acustici, perché senti il suono, sono dei campionatori fatti male per le nostre orecchie perché sono un po' grezzi per il 2010, però sono degli strumenti veri, hanno orchestre vere registrate, insomma. Tu hai abbandonato il concetto di band tradizionale per invietare a così flessibile orchestra. Sì, perché il mio obiettivo è, non sono più un ragazzino, ho una barba anche lunga, se qualcuno vede quella barba. Sì, in diretta rockway.altervista.org stanno vedendo la barba. Vedo la barba, si capisce che non sono più un bimbino. E allora l'idea che è, quando ho pensato al disco, di pensare a rimettermi lì a ricreare un gruppo, un basso, chitarra, batteria, molto probabilmente non sarei qua adesso, una roba che non mi interessava più. Era quella di partire da un concetto di, alla base, ci fossero questi strumenti qua inusuali, come dicevamo prima, e però fare girare attorno a queste orbite di questi strumenti, strumenti altrettanto inusuali, strumenti più normali, insomma creare una situazione comunque flessibile. Stasera siamo qua in trio, domani sera potremmo usare un'altra parte, un quartetto con una glass armonica, non de Martenò, non dioline, tutti strumenti in base dove si va a suonare, capito? Io mi sento di creare una roba, il live deve essere comunque una roba irrepetibile, deve essere veramente, anche per noi che suoniamo, non solo per chi ascolta, ma anche per noi, deve regalarci sempre questa emozione di dire sì, adesso siamo così, poi possiamo essere così, poi perché no, mettiamo questa cosa qua. crearla in base alle esigenze del posto. Questo discorso che tu hai fatto, questo concetto, mi ricorda le band dei fine anni 60, è tutta un'altra cosa, però il concetto è quello, l'idea è quella, i Grateful Dead, che erano totalmente aperti dal punto di vista musicale, era una comune musicale, cioè entravano, uscivano, suonavano, questo è importante. Proprio quello, poi ti dico un'altra cosa che mi piacerebbe fare, quando adesso ti dico, ora siamo praticamente, abbiamo fatto 4 serate, siamo venuti dei pivellini, anche se abbiamo la barba, a livello di Saturno siamo ancora un po' pivellini, adesso vediamo piano piano se riusciamo a diventare fagiolo, poi piano piano sbocciamo, tiriamo fuori il... e creare una specie di ricerca che non si deve fermare mai. Un'altra cosa che ho intenzione di fare, visto che ormai sono tanti anni che suono in giro con diverse persone, conosco molti musicisti con i quali ho molta affinità musicale, ci divide solo una cosa, la distanza. Certo. Magari io vivo a Bologna, ho degli amici a Trento bravissimi, degli amici a Gela bravissimi. Allora mi piacerebbe creare questa cosa qua, di creare un bellissimo nucleo solido preparato e poi arrivare in queste città, invitare a sorpresa dei musicisti che vengono a suonare la musica senza aver deciso tante cose prima, creare sempre, come dicevo prima, una cosa viva, dal vivo viva. Molto West Coastiano il discorso. Bravo, bravo. Saggio, cosa dici? Andiamo col primo pezzo. Andiamo col primo pezzo. Sì, la traccia ce l'hai scritta là, vediamo. La traccia 3, Letame. Perfetto, perfetto, ok. Rockway, l'onda del rock. Come letami nel borgo, aspetti un ritorno che porta lontano e piano poi ti aspetterò. Non toccarmi le mani, rimani lì a guardare, appeso tra i rami. Aspetterò. Sono notti che non dormo e forte grido, grido anche da fuori, mentre tutto scorre lento e più lento tornerà. Giro appoggiato ai muri, peggio di un tormento fermo che piano sale. Radio. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Su Blu Radio Veneto, in Blu, se vuoi, in Rock Wave Live del mercoledì, ci sono i saluti da Saturno. Maurizio. Sì, abbiamo parlato di questo pezzo, abbiamo sentito un ritmo questo... quasi brasiliano. Sì, c'è Vinicio Capossella sotto. Si sente. Si sente. Sì, molto brasiliano, molto latinoamericano, come giustamente ha detto Sergio. L'idea, Mirko, dove è partita? L'idea è partita che il disco tendenzialmente è tutto abbastanza lento, non è un disco che fa ballare, no? Però c'avevo questo pezzo qui e visto che era un pezzo veloce, l'unica cosa che ho detto ai ragazzi, facciamo finta che sia un pezzo lentissimo. Dobbiamo suonarlo in punta di piedi e con 2-3 suoni massimo. Allora ho deciso di mettere 2 chitarre, una con un in mezzo alle corde, stavo mangiando un panino, gli ho messo la carta, quella marrone del panini, del forno, no? Per avere un suono stoppato tra tipo grattugina. Un'altra chitarra, una chitarra normale acustica, un basso e basta, voce. E l'idea di portare Vinicio dentro? Vinicio è nata, ti racconto come è nata la faccenda. Allora, tipo dicembre dell'anno prima, non dicembre, 2 anni fa, a Bologna una sera è venuto a trovarmi a casa mia Vinicio e noi eravamo un po' di anni che non ci sentivamo più, perché dopo tanto tempo si lavora insieme, ci sente anche un certo bisogno di ricaricarsi per poi trovarsi magari più motivati per potersi dire più cose interessanti, no? E lì non volendo è nata così, lui faceva un concerto a Bologna, viene a trovarmi a casa e mi vide che in questa sala, che è una sala abbastanza grande io in casa, però non c'erano più tavoli, le sedie, c'erano solo strumenti di questo tipo qua. E lui ha cominciato a fare il giro attorno a questi strumenti e ma cos'è questo, cos'è questo, cos'è quello, cos'è questo, cos'è quello. Insomma siamo arrivati alla fine che era in cui era rimasto molto affascinato a questa ricerca che avevo fatto e lì venne fuori il discorso che io avevo intenzione di fare il disco da lì a poco, poi alla fine l'ho fatto a novembre, insomma ci è passato un po' e lui mi ha detto guarda ci sentiamo perché voglio partecipare a questa cosa. Lui è venuto su in teatro, si è messo a sentire i brani, gli ho scarrellato i brani che avevamo registrato, ha cominciato a cantare Le Tami, ha cantato un altro brano ancora e voleva andare ancora avanti a cantare dei brani e io dopo gli ho detto guarda forse è meglio che andiamo a mangiare qualcosa poi ce li riascoltiamo, perché c'era il cantante lì che non era contentissimo che aveva preso insomma praticamente lì. Hai capito? Dopo sai cos'è, poi era anche talmente un nome talmente pesante, certo, che rischiava anche di schiacciare un po' tutto se diventava troppi brani, faceva troppi brani. Ho preferito limitarmi, cioè. Anche perché 3 mi sembrava già tantissimi, esatto, io già uno ero contento, insomma. Cioè praticamente il cantante la sua possibilità veniva molto ristretta. Sì, dopo viene ristretta anche perché insomma dai, lui ha una personalità molto forte. Poi io mi sono accorto, anche sentire le recensioni da gente qua, insomma, che ha una forza anche molto grande a livello di personalità e di entrare dentro la musica. Sembra che queste canzoni siano sue. Capito? Certo, certo. Canta proprio. Qui il cantante invece è Bruno Orioli. Pardon. Come stai? Bene? Sì, bene. Parla vicino. Parla un momento vicino al microfono. Direttamente da Saturno. Ecco, direttamente. Senti, alla voce arriva proprio da Saturno la tua voce. Sì, sì, io mi trovavo su Saturno quando un giorno mi telefona Mirko Mariani e mi dice «Ehi, vuoi venire a cantare con me?» Io sono arrivato. C'era già il cantante, quindi era un ruolo molto semplice da prendere. Molto flessibile, molto flessibile. Appunto, si chiama l'orchestra flessibile. Ma noi su Saturno siamo abituati a questa flessibilità. Ah, ok. E la chitarra c'è Mirko Monduzzi, Mondo praticamente. Sì, buonasera. Buonasera. Ti avvicino un po'. Come stai Mirko? Come stai? Sono un po' stanchino, però sto bene. Strano, non è mai stanco. Sono nato stanco. Sì. Però suoni bene. Sei nato stanco, però suoni bene. Sì, okay. Confermo. Ecco, è il mio chitarrista preferito. Ecco, perfetto. Tu pensa che abitiamo vicini, perché lui è di Brisighella, io sono di Cesena. E ci siamo conosciuti con questa cosa qua, non ci eravamo mai conosciuti prima. Il titolo del disco si chiama Parlare con Anna. Anna è nascosta dall'altra parte, sì, sta facendo le fotografie. È qua con noi, ci segue sempre. Ormai lei i Beatles erano in 4 più 5 con George Martin. Esatto. Noi siamo in 3 più Anna e più tutti gli altri 40 che si uniranno in avanti praticamente. Sì. Il titolo prende spunto da questo discorso. Diciamo, prende spunto da questo discorso per una cosa molto sincera. Perché io in questi anni, diciamo, è 8 anni che non suonavo più con Vinicio, con Enrico Rava, avevo deciso di smettere di fare il batterista. E tu parti come batterista? Io sono un ex batterista, diciamo, in pensione. E in pensione anticipata, non sono così vecchio da essere in pensione, però... Però tutti i batteristi hanno la barba, sai? Ah, sì? Molti mi ricordo con la barba. Vedi. Infatti, devo fare ancora. Infatti, la devo tagliare perché ogni tanto mi chiamano per fare il batterista, sarà per colpa della barba. E parlare con Anna è una dedica sincera per il semplice fatto che in questi anni che io ho smesso di fare batterista, diciamo, ho smesso anche di, tra virgolette, in maniera venale, di lavorare a livello soldi, no? Perché comunque ho deciso di fare questa ricerca, che non è stata una roba molto breve, perché sai, prendere questi strumenti, cercare gli strumenti, non si trovano, di cercarli, metterli insieme, capirli come suonano, non funzionano, farli andare, insomma, una roba molto complicata. E diciamo che se ho potuto fare questa cosa qua è grazie a lei, sì, che mi sembrava il minimo, insomma. Omaggiarla così. Omaggiarla, insomma, dai, dedicargli. Benissimo. Cosa dici, Sergio? Un altro pezzo dall'album e poi cominciamo con il live. Mettiamo la traccia numero 4 che si intitola Riverenza. Perfetto. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Riverenza se puoi, non toccare la nostra casa, ora vattene via, non restartene qua. L'onda del rock. E siamo sempre su Saturno, con i saluti da Saturno. Esatto. Maurizio. Esatto, siamo sempre su Saturno. Mi dico, musicalmente, questo pezzo che era un po' accelerato alla fine, un po' ipnotico, se mi è consentito il termine, come l'hai creato, come l'hai sviluppato? Questo brano, diciamo, è forse l'aspetto, anche se nascosto, più brasiliano del disco, anche se è un po' nascosto. Mm. Il ritmo, diciamo, pulsante è della bossa nova classico. Sì, però alla fine è un po' diverso. Bravo, però alla fine ho creato una situazione di incastri, di chitarre, e soprattutto c'è un synth molto ipnotico, come dicevi tu prima, cioè, che crea una situazione che imbarazza un po', forse, non si capisce bene cosa possa essere, perché è anche un gioco divertente quello di creare delle cose per partire da degli spunti precisi e opacizzarli un pochino per dargli un aspetto più... Com'è la storia di creare un pezzo? Tu lo crei, lo sviluppi, non so, al piano e poi lo fai sentire agli altri praticamente. Ma io lo sviluppo al piano e poi lo faccio sentire a loro, ai miei amici, e devono dirmi per forza che è bello, perché appena fai un brano ci tieni sempre, anche se è brutto. Ti dicono che è brutto, ti girano la scarpa. E dopo da di lì dicono che è bello, io mi gaso un pochino e allora penso all'idea di come posso fargli attorno, insomma, come vestirlo. Certo, ripetiamo che questa è diretta rockwave.altavista.org. Attraverso la diretta rockwave possiamo vedere e sentire la band stasera, quindi assolutamente ringraziamo il nostro staff, Sergio Bortolami in regia, eccezionalmente ma con molto piacere da parte mia, Alberto Pisco, che è il nostro direttore artistico, che ha contribuito a farvi venire qua stasera, dovrebbe arrivare fra pochi minuti. Bellissimo. E le tre ragazze che ci seguono sempre, la Patrizia, la Nicoletta e la Silvia, che fanno parte della rete, che esistono. Che verranno a trovare. La Silvia è già venuta a trovarci, non caso. So. e anche Roberto Baldi, che ha contribuito a sistemare le telecamere. Io cosa dici, Sergio? Sarebbe l'ora adesso di partire a suonare, ragazzi. Va bene, se volete accendiamo la macchina a vapore, e partiamo col primo brano. Ok, va bene. Ok, vai. Rockwave, l'onda del rock. Passaggio del tempo e del tempo che mai più ritorna. Ma se poi porta lontano questo vento caldo ormai, porta lontano e non aver più paura di superare il confine finché nel petto. L'onda del rock. Ok, ci siamo. Posso dire una cosa? A me questo andare, questo svilupparsi, questo... Ma non gli fai i complimenti? Sì, certamente. È eccezionale sta cosa, mamma mia. Arrivo per fargli i complimenti adesso. Oltre al pezzo è molto bello, aveva un po' di francese alla fine, non so se sei d'accordo. Ma sai, un valzer. È un valzer, quando si attorno al valzer. Un po' di francese, ma un francese molto delicato, fatto un'atmosfera molto racchiusa. Siamo dal vivo, siamo live qui a Ma guarda, tu qui sai, comunque quello che parlavamo prima, questi strumenti qui nascondono una forza pazzesca. Cioè io veramente, adesso c'è... qui con noi c'è parlare con Anna, sì, che non si possono dire certe cose, ma io li amo, io li amo, hai capito? Non ti tradirò mai, però li però... amo, lo dico alla radio, ma così non ci pensiamo. Assolutamente più. Dal vivo, dal vivo, dal vivo. Una dichiarazione. E comunque sì, hanno comunque hanno un suono che ti fa vedere delle immagini. Esattamente. È una roba che interessava molto, perché adesso mi collego in un piccolo discorso, perché... diciamo che la mia forte fonte di ispirazione è il cinema. Io quando vedo un film che mi piace, qualcosa succede, o che non dormo, o che scrivo un brano musicale, o che mi lascia qualcosa che supera anche il bel disco, capito? Io sul cinema ho, e questi strumenti qua, non so se anche voi capita, però a me mi fanno vedere un'immagine definita, cioè, capito? Magari che può essere diversa da quello che vedi tu, quello che vede un altro, però a me mi smuovono un po' di cinema, me lo danno. A me viene in mente una cosa su questo, non so se sei d'accordo, sono d'accordo anche gli altri. I Marlene Kunz è un'altra band, ha fatto un discorso di questo genere, nel senso che ha praticamente musicato con il film davanti. Praticamente ha fatto la musica di un film muto, praticamente. È un discorso che hanno portato avanti Marlene Kunz e un'altra band recentemente a Torino. Ma noi abbiamo in la Flexible Orchestra, c'è anche un elemento che si chiama Marco Molinelli, tra l'altro è un bravissimo. Dopo le citiamo tutti gli elementi. Regista che fa tantissimi video per tantissimi gruppi su MTV, per dire, una firma molto. Che lui si occuperà della parte visual del live, quando avremo dei posti dove ci sta bene anche suonare su delle immagini, così abbiamo anche quell'aspetto lì, insomma, capito? Non ci facciamo mancare niente, perché giusto. Dai, da Saturno minimo dobbiamo essere preparati a tutto quello che può appunto succedere. Per quello. Ma è giusto il discorso del cinema, vero Sergio? È molto cinematografico, decisamente molto cinematografico. Questo pezzo giustamente era molto cinematografico. E poi c'è un brano addirittura, visto siamo nel discorso cinema, che è appena uscito il primo disco della Flexible Orchestra, però stiamo già pensando al secondo, che per il momento dovrebbe chiamarsi Cinema. Ah, perfetto. Io vedo proprio per farti capire. Quindi vuol dire già che c'è l'idea. Non possiamo dire che è un concept album con il cinema che gira, oppure no? Cosa dici? Allora, il cinema gira, e anche perché sono dei film, proprio dei film dentro questi determinati flash di film. Sì, sono molti flash di film, come dicevo prima, è forse la fonte dove prendo più le idee, insomma. Adesso abbiamo in questa dimensione bellissima acustica, con la dimensione un po' più allargata, come li fate questi pezzi? Sempre con una dose un po' più di violenza musicalmente parlando? Ma guarda, abbiamo suonato due sabati fa in una cosa bellissima in Piazza Signoria, sotto la loggia dei Lanzi. Ah, bellissimo. Avevamo 2 metri il Davide, 1,5 metri, come si chiama? Perseo. E una piazza piena di gente, eravamo noi tre. Bello. Perché il nostro produttore, scusa, agente, che è uno di una certa esperienza, si chiama Alessandro Ceccarelli dell'Estragon di Bologna, ha visto la forza di questa cosa qua, non diventare, ampliarsi per far, tra virgolette, più casino, ampliarsi per arricchire sempre di più l'aspetto scenografico o intimista, o creare tanti aspetti, ma non quello di basso batteria, non ci saranno mai in questo gruppo. Ho capito. Per dirti, che tu giustamente hai fatto del progetto di trovare in ogni posto, non so, in Trentino, non so, qualche musicista amico tuo per salire sul palco, e quello si potrebbe partire anche quello. Sì, sarebbe, diciamo, passata la prima fase, quella di rodaggio, quando il gruppo, diciamo, la base e le persone che ne fanno parte. La cosa più bella è incontrare nelle varie città, insomma, gli amici che ho sparsi per l'Italia, per magari anche distruggere, chissà, delle volte può succedere che distruggono tutto, può essere bellissimo, oppure delle volte, però creare delle situazioni anche un po' di conflitto, di studio, hai capito? Una cosa un po' viva che si decide al momento, hai capito? Una continua jam session praticamente. Una continua jam session, bravo, perché comunque io sono nato come musicista jazz e facendo canzoni, che è la cosa che ho sempre amato di più. Anche quando faccio il batterista jazz, io ho in testa Sergio Endrigo, che è il mio grandissimo... Tuo nome è tutelato. Ah, sì, sì, Sergio Endrigo è... E comunque mi piaceva pensare a questa cosa qua, però ho già questa idea qui, che bello sarebbe sentire una canzone di Sergio Endrigo con lui che canta, io ci vado sopra con la batteria, faccio un casino della Madonna, oppure qualcun altro che crea altre situazioni, insomma è una roba che l'ho sempre avuto in testa. Poi adesso finalmente, dopo tanti anni, dopo tanta ricerca di sono arrivato a questo, piano piano a metterlo in piedi. Bene, saluti da Saturno, un altro pezzo da disco, cosa dici Sergio? Sì, andiamo a sentire Discese Tulipano, che poi è la traccia numero 7. Perfetto. Rockway, l'onda del rock. Blu Radio. Il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. 22:42 minuti, Blu Radio Veneto in Rock Wave del mercoledì, e quindi siamo in versione live dai nostri studi. Questa sera con i saluti da Saturno. Maurizio. Sì, volevo, mentre il pezzo andava, Circo Monduzzi, come ti hanno chiamato? Faceva delle sonorità alla Frank Zappa. Adesso me li fai un momento. Un attimo, Circo Monduzzi? Non vanno più. Fai saltare il leone. Ci sei, Circo Monduzzi, ci sei? Accendi il cerchio di fuoco. Ecco, questo qui era il numero della scimmia gorilla. Scimmia gorilla. Andiamo a fare una roba più delicata. Fagli sentire i pinguini in amore. Serenata di pinguini. Senti i pinguini in amore come. Diciamo, Circo Monduzzi, adesso stiamo esplorando questo nuovo. Che ci interessa, faremo degli spettacoli tutti incentrati su di lui. Bene, molto bene. E ci sono delle cose particolari, con le telecamere li stanno inquadrando, sono dei carillon praticamente, delle belle cose, di antiche anche. È alla base dell'elettromeccanico proprio. Qui c'è solo il meccanico, però senti come... Manifattura di Saturno. Questa è un po' la base, diciamo, da qui inizia tutto. Magari, non lo so come dire, prima di fare, di mangiarti una tagliatella, devi prima la pentola, metterci tutte le tue cosine. Ecco, da qui è la pentola. Questa è la pentola, dopo tutto il resto viene a condire questa robina qua. Eccoci qua. Bellissimo. Che data portano di fabbricazione, se lo sai? Allora, sono vecchi. Il mio è una roba moderna di quelle di ultima. Invece Circo Monduzzi, come vedi, che è uno che è più attento alle cose. Viene dal vecchio blocco sovietico. È stato importato direttamente dal vecchio blocco sovietico dopo la caduta del muro. Ok. Questo tagliatelo, ragazzi. No, è tutto dal vivo. Cioè... Dal vivo. Bellissimo. Ok, questa era una... Voglio un piano quinquennale, la stabilità, cantava qualcuno. Praticamente era l'anteprima, l'inizio del pezzo che farete adesso. Sì, diciamo che dal vivo usiamo questo numero così pirotecnico del carillon per partire con questo brano qua. Che bellissimo, che bellissimo. Che andrà nel prossimo disco, comunque, se volete lo facciamo. No, facciamo, volevi fare le foglie, mi pare. Ti posso fare come foglie? Come foglie, esatto. Sai come foglie? Sì, perché io l'ho amato particolarmente, per un mese consecutivo è andato in onda. Aspetta però che Circo Monduzzi si è preparato per un altro brano. Ah, va bene, allora facciamo questo pezzo. Abbiamo già i leoni caldi per il numero. Sono i leoni, capito. Va bene, facciamo dopo. Dopo si scappano dalla gabbia, è pericoloso. Il numero dell'Hotel Miramar. Rock Wave, l'onda del rock. Cambia la tinta col tempo, mescola. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Bellissima sta cosa. Strepitosa. Bellissima, purissima. Cercando il sole. Stiamo tutti cercando. Stiamo cercando il sole. Ah, sì, sì, tutti sì, stiamo sì. cercando. Non ci fermiamo mai. Venere, Mercurio, non ci fermeremo Giove. Mai. Tutti cercano il sole. Bellissimo, bellissimo. L'uso dei carillon. Questo strumento inusuale del 1960, c'è una antilettura un po' particolare, cosa ci metti dentro? Allora, questo qui si chiama Optigan, vuol dire lettore ottico, funziona come un proiettore, c'è una lente, una lampadina e dei vinili, che se visto che c'è la webcam facciamo vedere, certamente. Magari quelli che riescono, sono dei vinili uguali ai 33 giri, solo che sono fatti di celluloide, sono molto fini, vedi, e certo. La lettura non è a puntina, ma viene fatta con questo... diciamo tipo laser. Ma li trovi ancora queste cose? Ma questi qui ho avuto fortuna quando l'ho presi, questo qua ce l'aveva un ragazzo che non aveva capito bene il funzionamento. Però era stato bravo perché aveva fatto una ricerca e si era portato a casa quasi tutti i dischi che avevano prodotto. Sì, io ho quasi tutta la collezione delle orchestre, dei suoni registrati per questo strumento qui. Bellissimo, una cosa bellissima, veramente capolavoro, vero Sergio? Addirittura. No, è bello, perché anche visivamente è bello. Ma infatti, sono rimasto a bocca aperta io. È che non hai portato tutti gli strumenti inusuali che hai utilizzato. Ma no, qualcos'altro avevo portato, però ho visto che era molto stretto, sai, ci sono delle robe un pochino, allora ho messo giusto le robe che ci servono per fare quei brani un pochino più psichedelici. No, beh, più bello, rappresentanti. Però Mirko, scusa, Circo Moduzzi deve essere pronto in queste cose, perché altrimenti ma no. Io non voglio fare queste parti in radio, però scusa, mi fai perdere. Io dico sempre psichedelico. Ma no, di solito ci prendo. Ma no, perché psichedelico? Ma non devi dire psichedelico. C'è un altro che dice sempre psichedelico, è qui presente, sono io. Anche chitarre lisergiche. È già più bello, Ma è tuo? Chitarre lisergiche. È tua, una cosa tua. Sì, ha il copyright. La possiamo usare come... Certo, non è copyright mio. Che arrotondi. Bellissimo, in casa è bellissimo. Una bella atmosfera. È una bella atmosfera che si respira, cosa dici? Ma guarda, quello... Ma dovremmo cambiare le luci, secondo me. Troppo ascolta, io la prima cosa che ho fatto, visto che sono un fanatico delle luci, proprio soffro la luce. Oh, che bello. Ci messo aspetto anche il monitor. Che bello. No, riaccendi. Però... mi ero portato una bella borsa, sì, ho visto che, c'erano delle belle lampade dentro, no? Perché non c'è luce molto alta, io tendo a abbassare. Abbassare. Ma le utilizziamo dopo queste lampade? Ah, se vuoi possiamo utilizzare, sono in macchina. Una addirittura è gira, fa anche effetto. No, ma è qua una, L'abbiamo portata qua, sì, con la borsa, sì, l'ho portata. Ah, ma l'ho rimessa in macchina. Ah, l'hai rimessa perché in dopo macchina. Visto che sì, la stazione era già predisposta, non ho voluto forzare. Ho capito, però forzare. È sempre una cosa, fino a mezzanotte abbiamo tempo. Allora si può fare. Si può fare, chiaramente. Cosa dici, un altro pezzo prima di fare il solito giochino? quello dei dischi non ma loro lo sanno già, lo allora senti un po' la traccia numero 9 mi pare, un fiore che riposa. Perfetto. Okay. Rockwave, l'onda del rock. Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Rockway, l'onda del rock. Pochi minuti alle 23, Blu Radio Veneto ancora in blu, facciamo col blu io stasera, con Rockwave Live. A te Maurizio. Sì, siamo sempre con saluti da Saturno, abbiamo sentito che pezzo, Mirko, ti ricordi il titolo? Il pezzo sì, del adesso. Disco no, adesso, che abbiamo sentito adesso. Sì, un fiore che riposa. Velocissimamente, come è nato, come si è sviluppato? Questa qui è una cosa un po' pesante. Un po' pesante. Diciamo, sì, diciamo che la notte, io ho due bambine, e la notte del terremoto dell'Aquila, una bambina, la piccola, che aveva 3 anni, aveva la bronchite, si svegliò. Io andai nel divano con questa bambina perché non dormiva, accesi la televisione nel momento in cui accade quello che è accaduto, e con questa bambina in braccio, con questa tosse che non stava poco bene, così già ero abbastanza io E poi una delle prime scene che ho visto proprio questa bambina che veniva presa dalle macerie. Penso sia stata la prima a Onna che hanno trovato, la bimba che hanno trovato avvolta lì, e mi è scattata una roba troppo, troppo, troppo violenta, e è venuto fuori questo brano qua, insomma, un fiore che riposa, che non è per niente violento. Non è violento, però è triste. Emotivamente, sì. Violento. Emotivamente, esattamente. Adesso sono le 22:57, quasi 58. Di solito noi facciamo il giochino che vi abbiamo già preannunciato, che di solito non diciamo mai niente. Okay. Sono stato buono stasera, ve l'ho detto prima di cominciare. Come mai? Ti facciamo pena? No, assolutamente. Visto che 5 sono troppi, abbiamo deciso di farne solo 3. Okay. I 3 dischi da portare su un'isola deserta. Parte Circo Monduzzi. Circo Monduzzi, vai. Io porterei Rain Dogs di Tom Waits, che è stato un disco fondamentale nella mia vita, ho ascoltato migliaia di volte. Epocale, possiamo dire cosa dici? Sì. Scusa, puoi sputare la cica per favore? Sei, okay, sei come la, okay, sento anche te. E non sotto il tavolo. Ecco, lui attacca, lui attacca con i bambini, come a scuola, le mette sotto, capito? Adesso non posso più suonare. Scusa, ti ho interrotto. No, no, e poi citerei Captain Beefheart, che è stato il, in qualche modo una delle fonti di ispirazione di Tom Waits. Ma non solo Tom Waits, e poi adesso mi viene da dire gli Stones. Sì, ma era l'amicone di Frank Zappa. Gli Stones, sì. Anche, ho avuto una fase di Frank Zappa, però adesso sinceramente non so se potremmo mettere... No, no, no, no. Lui era amicone di Frank Zappa, Captain Beefheart. Captain Beefheart, sì, esatto. Infatti Zappa deva, produsse il disco. E ci deve per la bizzarra l'etichetta di Frank Zappa, chiaramente. Sì. E metterei gli Stones. Quali? Exile on Main Street. Ah, perché le riedizioni che hanno fatto adesso oppure all'epoca? No, no, io ho sempre amato quel disco e fui instradato su questo disco da un mio amico americano che lo definì The Definitive Street Rock and Roll Album. Ah, ho capito. E quindi diciamo che è un album che ha ispirato un sacco di roba, a partire dal lo-fi a tutto... tutta, diciamo, la musica un po' sporca che è venuta dopo. Non è stato capito all'epoca, capito? No, non meno. Aveva il singolo. Esatto, non aveva il singolo, è vero. Ok. Che dici? Vai Bruno, ma dobbiamo dirlo ognuno la sua, basta gli suoi. No, no, è chiaramente ognuno. Ah, proprio. Ognuno proprio, allora vai Bruno Rioli. Guarda, Monduzzi ha rubato, il circo Monduzzi mi ha rubato Exile on Main Street. Volevo sottolineare la mia condizione di esiliato, visto che io vengo da Saturno, sono stato rubato qua, sì, su questa terra. E comunque metteremo il disco Exile, un disco sconosciuto, Exile, di Geoffrey O'Reima. Perfetto. Ok. E poi lui ha detto già gli Stones, quindi dirò il White Album. Dei Beatles, chiaramente. Okay. E poi dato che mia figlia lo vuole ascoltare sempre, metteremo tutte e due che vogliono ascoltare Rimini di De André. Ah, bene, bene, bellissimo. Guarda. Rimini è un grande, grande disco. Sì. Vai, tocca a te, Mirko. Allora, invece io sono un pochino più... più morbido, e allora partirei da Chet Baker, però io ho un problema, non sono bravo come loro, perché loro hanno studiato, io invece mi sono limitato a fare conservatorio e l'inglese non me l'hanno, non me l'hanno, anzi forse devo farlo, non ci sono mai andato, forse addirittura, i titoli non mi ricordo degli album, io mi piace sempre raccontare le copertine, è la copertina dove lui abbraccia questa bellissima ragazza, c'è una bella luna, mezza luna, dove sono seduti, Pink to You, c'è una roba, sì, una roba gira attorno a questa cosa qua, però io purtroppo i titoli non li so. Il secondo disco, che è il più bel disco del mondo, proprio c'è solo un disco per me nel mondo, è quello lì, è Arturo Benedetti Michelangeli che suona Chopin, perché è una roba che non si descrive, cioè, c'è un suono, c'è una, un, c'è un, c'è un, non so cosa c'è, un tocco, c'è un tocco, c'è una registrazione, c'è tutta una roba che io non ho mai più sentita, quella cosa lì, sì, che la penso proprio, che quello è proprio il disco dei dischi. E poi se stai in una deserta devo portarmi anche le mie figlie, mia moglie, visto che ormai tanto sono un appendice della mia vita, non si staccano mai da me, porterei Sergio Endrigo perché piace sia a me che a loro. E quale di Sergio Endrigo? Che periodo di Sergio Endrigo? Ah, Sergio Endrigo tutto. Tutto quanto. Sì, forse l'ultimo lo eviterei, forse proprio l'ultimo quando faceva un po' di karaoke, tipo cantava sulle basi, infatti. No, mi fermerei un po' prima, però porterei. Benissimo. Ok, adesso direi di far sentire questo pezzo meraviglioso che per un mese è andato in onda sulla nostra emittente. Ah, benissimo. Tu parli della traccia numero 10 di Profumo? No, e... no, dal vivo Foglio. Ah, ok. Adesso lo sentiamo. Come foglie che volano via del suo ricordo, se resta la scia, e sempre più, sempre di più, sempre più su, e sempre più. Sono attimi di luce che stiamo a guardare. Sono onde in mezzo al mare, senza. Come vele che soffiate via, prese dal vento e portate via. E sempre più, sempre di più, sempre più su. Sono gocce mille nodi che stiamo a guardare. Sono lampi di colore e sento avanzare. Come polvere sono le foglie, cadono col vento e volano via. Blu Radio. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Maurizio, ricorda con chi siamo, certo, questa sera? Con chi? Con i saluti da Saturno. Meraviglioso, un pezzo meraviglioso, sì, come foglie. Sì, sì. Incredibile. Ho letto una recensione di un critico che ha scritto una cosa giustissima. Come foglie al vento restano impigliate tra le pieghe della nostra anima. Una cosa meravigliosa. Cosa dici? È quasi più bello del brano. Io non l'avevo letta, però è bellissimo. Che bello. Ma chi è che l'ha detto? Era un critico, l'ha scritto. Ho letto una delle vostre recensioni. Bello, bello, bello. Ha proprio dato l'immagine di questo pezzo. Sì. Incredibile. Messo su la traccia numero 2 subito, immediatamente. Sì, perché lì si gioca duro, non si guarda più in faccia nessuno, caro mio. Qui si scende subito in campo e si dice: ragazzi, noi siamo così. È meglio presentarsi prima che dopo mandare piano piano uno a brutte sorprese, no? Perché sai, a chi non gli piace la musica comunque, che ha bisogno di certa ovatta attorno a sé, è inutile raccontarsela, insomma, il disco è così, è giusto esporlo subito. Esattamente. Citiamo allora l'etichetta che ti ha dato una grande mano per fare questo disco, la Goodfellas. Ma la Goodfellas è una grandissima etichetta italiana, veramente, perché uno, la cosa più importante di cui ho bisogno io umanamente è di trovare gente con cui parli di musica, che la musica è la mia vita, io passo sopra lo strumento da quando sono piccolino e per fortuna che c'è la musica per me, perché comunque è una roba che mi fa stare dentro e fuori. E allora è fondamentale trovare nel percorso, quando tu reputi di aver fatto delle robe per te importanti, gente che avverti, che capisce e che ama la musica come l'ami te. Questa qui è la cosa più bella che ti può capitare. E Goodfellas è veramente, c'è delle persone tipo Jacopo, Stefano, Simone, la Rossana, che si occupa della parte promozione. Sono delle persone, ci sentiamo al telefono e siamo contenti, mi mandano dei messaggi di piacere, insomma, che ci vogliamo bene. Addirittura con uno non ci siamo ancora visti in faccia, è quello con cui ci sentiamo di più, è quello che ha scoperto, diciamo, Saluti a Saturno. Per vari motivi non ci siamo visti, però c'è veramente questo bellissimo rapporto umano che per me è la cosa fondamentale. E poi l'altra cosa positiva, insomma, che ha dato, tra virgolette, nel piccolo, perché non è un disco da potersi permettere chissà quale è, però una visibilità, insomma, della quale sono molto soddisfatto, insomma. Anche dal punto di vista visivo, a proposito di visibilità, il libretto è fatto molto bene. Ma ci tenevo molto, ci tenevo molto, anche perché volevo dare l'idea di cosa si volevo che la copertina da sola parlasse già, doveva dire qualcosa, insomma. Infatti il grafico, che è una persona non più giovanissima, comunque è un creativo molto famoso, quello che, per farvi capire, si chiama Pierpaolo Cornieti, quello che ha creato il famoso pubblicità della Fernet Branca, vi ricordate, col bicchiere di ghiaccio, col Fernet Branca, la scritta del Bancomat, per dire, l'ha fatta lui, la scritta Bancomat, ma tante altre cose, la Volkswagen dell'Apollo, vi ricordate che era lunga, che c'erano tutti quelli dentro che assomigliavano a Paul McCartney, non so se vi ricordate, insomma, molte pubblicità, è un creativo e ha capito molto bene il mio messaggio. Allora mi ha chiesto la prima cosa: ma quali sono le cose che tu, come tu prima hai detto, i dischi, lui mi ha detto quali sono gli oggetti, le cose della quale tu sei particolarmente affascinato. Io gli ho detto guarda, le bajour, infatti parlavamo prima di luce, è luce, la bajour perché per me dà la luce giusta, e la valigia, possibilmente vecchia, perché mi dà l'idea di essere in movimento, no? Avere qualcosa di bello che ti aspetta, qualcosa. E allora lui ha creato questa cosa, infatti c'è una bajour, c'è l'Anna, la mia moglie, leggermente piegata, perché stare con i musicisti dopo un po' si tende a diventare un po' torti. E il disegno l'ha fatto Guido Scarabottolo, che è un illustratore molto, molto bravo, insomma. È stato un insieme di persone che ha lavorato gratis. Ecco, gratis, che insomma gli piaceva mia idea e hanno appoggiato questa cosa. E dobbiamo sottolineare una cosa, che spesso e volentieri le etichette cosiddette alternative sono molto più interessate a fare un prodotto di un certo rilievo anche dal punto di vista grafico, che no le grandi multinazionali, praticamente. È proprio così. Sì. C'è ancora un po' di arte. Sì, qui diciamo che la cosa bella, infatti i Goodfellas ti lasciano molto libero, ti danno il consiglio che sento di darti, però sono veramente hanno un rispetto infinito per chi fa musica, ragazzi, non è mica facile. Quindi libertà totale, non c'è nessuna libertà, nessun paletto totale. Infatti vi dico la verità, io sia Goodfella che Estragon Lab, che è la gente che si occupa delle serate, adesso non so quanto durerà magari una settimana, un anno, non lo so, però è veramente una bellissima esperienza. Bene, io possiamo citare anche gli altri musicisti, se te li ricordi, sono tanti, dei Flexible Orchestra. Sì, diciamo che nel disco hanno partecipato, come ho detto prima, Vinicio che canta tre canzoni, poi c'è Nadia Razzimandresi, che è una ragazza di Parigi, che suona questo strumento che si chiama Onde Martenot, che è il primo synth della storia, diciamo, è uno strumento molto particolare, che lei addirittura ha collaborato con i Radiohead, più che Radiohead, con il chitarrista, Greenwood si chiama, e il cantante Tom York. E poi abbiamo dei ragazzi romagnoli, c'è Antonio Gramentieri alle chitarre, c'è Diego Sapignoli, sempre romagnolo, alla batteria, Vibrafonette c'è scritto. Sì, vibrafonette, tutti strumenti poi alla fine sono miei, poi alla fine abbiamo si trova più vicino, ci suonava. Ah, ok. Sì, c'è un po' di gente dell'ambiente rock, jazz, un po' tutti. C'è Domenico Caliri, che è un chitarrista di Messina, che suonava con me, abbiamo suonato tanti anni insieme con Enrico Rava. E, insomma, c'è tanta gente che ha lavorato con me in passato e ci siamo ritrovati. Bene, è una cosa bellissima. Sì. Continuiamo il discorso allora di apprezzare il disco. Che pezzo abbiamo scelto adesso, Sergio? La traccia numero 10, come ti stavo dicendo prima, Di Profumo e Pietre Scure. Ok. Rock Wave, l'onda del rock. Spazio e nuvole che girando troverò, fino a credere che da solo volerò su di te, e sicuro lì sarò, fino a che di profumo e pietre scure. Liberata, Rock Wave, l'onda del rock. Ancora i saluti da Saturno su Blu Radio Veneto in Rock Wave Live di questo mercoledì di metà quasi novembre. Maurizio, io vi invidio per come vi siete sistemati. Se qualcuno ha la possibilità di vedere le nostre webcam, potrà notare abat-jour, lampade che girano, palle che girano. Aspetta, palle, quelle tipo insomma da discoteca, per carità. No, palle che girano, no. Vabbè, Maurizio. Sì, un'atmosfera bellissima. Proprio. Abbiamo allestito il set. Esatto, avete allestito. Abbiamo solo due fonti di luce, ce ne sono tante altre, però chiaramente gli spazi sono questi, quindi dobbiamo utilizzare. Comunque ci siamo, ora cominciamo a entrare nel fascicolo 2. Nel fascicolo 2, a partire dalla seconda ora, era giusto che ci fossero le luci che girano e le abat-jour che fanno parte della nostra vita. Ecco, prima abbiamo parlato, dovevamo fare una domanda sul discorso della struttura ritmica. Parliamo di un metodo della struttura ritmica, che è alla base di tutto il tuo progetto. La struttura ritmica è la base di tutto il mio progetto, perché io sono un ex batterista in pensione, come dicevamo prima. Sì. Però la struttura ritmica è abbastanza sottintesa. Mm. Ecco. Perché, allora, intanto i brani con le batterie in tutto il disco sono solo due. Vero. E uno con una percussione che si chiama Kayon, che è col quadrato dove ci siede sopra, presente, no? Che fa... Quello. Perché volevo creare una situazione, volevo creare del ritmo senza usare troppo il pestaggio e dare un po' troppo all'idea del canonico. E dopo avevo un brano cui tenevo molto, che era parlare con Anna, che l'avevo registrato poco prima e l'avevo fatto proprio con la batteria. Allora ho detto, ma noi facciamone un altro con la batteria per dare una coerenza più alla scaletta. Però l'avrei fatto quasi a meno. Sì, ero quasi più contento di farne a meno. Poi una cosa simpatica è che adesso sono andato in studio questi giorni a Milano con Vinicio a fare il suo disco nuovo. E la prima cosa che mi ha detto è stata questa qua: sai Mirko cosa ho deciso? Non voglio la batteria nel disco. Ah. Vedi, si sta spargendo un po' una malattia, non batteria. Sì, ritmo, ma non batteria. Quindi la batteria chiaramente l'hai lasciata in pensione in tutti i sensi. Quindi nel disco nuovo la batteria ci sarà o non ci sarà? No, nel disco nuovo ci sarà sì qualcosa di molto leggero, ci sarà. Sì. Ci sarà sempre uno o due brani, leggero, ma ci sarà. Quindi l'elemento ritmico è stato sostituito praticamente? Sostituito, sì. Magari un battito di mani, un semplice battito di penna, no? Qualsiasi cose che entrano dentro la chitarra senza farsi troppo sentire, però danno quell'impulso che può bastare. C'era un gruppo italiano, forse tu conosci, sono gli Toys Orchestra. Anche loro all'inizio di carriera usavano i cosiddetti toys, cioè gli strumenti giocattolo. Ah, okay. Giocattolo sempre tra virgolette, chiaramente. Ma dai, no, fa piacere sentire questa cosa. Non l'ho mai, riconosco, ho visto nelle recensioni che ci sono anche loro, però non ho bene chiaro cosa fare. Erano partiti così, anche loro con gli strumenti. Questi no, è riduttivo dire strumenti giocattolo, strumenti piccolini, ecco, sì, possiamo dire questo. Sì. Benissimo, sì. 23, 18 e quasi 19, dobbiamo assolutamente suonare qualcosa con questa dimensione, questa luce soffusa. Inauguriamo la parte abat-jour. La parte abat-jour, esatto. Okay. Questo brano qua si chiama Cinema, no? Prima parlavamo di cinema così, allora vorrei dire giusto una roba, visto che siamo a Padova, certo. Siamo, l'ho già detto Alberto, quando ci siamo scritti su Facebook, tra l'altro siamo il primo, e mi ha battezzato su Facebook Alberto, Mondo Circle Fei mi ha aperto la pagina e Alberto mi ha battezzato. E diciamo che quello diceva lui della cosa, me l'ho perso un attimo, parlando di Padova, che ero molto contento di venire, anche perché Padova comunque è la casa del mio regista preferito, esatto, che è Carlo Mazzacurati, dei registi in vita diciamo moderni, che io lo adoro la follia. E ora facciamo un brano, si chiama Cinema, che potrebbe essere molto probabilmente il titolo del disco nuovo, che è tutto scritto sopra un film di Mazzacurati che si chiama Il Prete Bello, tratto da un romanzo di Parise, certo. Che è veramente un film senza è una roba che io, pensando a quel film, insomma, vado visibilio. Poi posso dire un'altra, perché non mi basta, resti basito. Basito, ecco un'altra, tipo, ne avevo un'altra, non mi ricordo, la chitarra, l'isergica. Per me è anche un po' l'isergica, cioè c'è tutto un insieme di robe che dimmi anche te una, Mirko, perché ce l'hai secondo me? Sì, psichedelico, pandemonico. Ecco, perfetto, ecco. Le avete tutte. Per me quel film lì ha tutto quello che uno si può immaginare, perché c'è una fotografia incredibile, c'è un gruppo di ragazzi che gioca, di bambini, giocano sotto questo ponte, c'è tutta una roba. E poi c'è una cosa pazzesca, c'è Fiorenzo Carpi nella colonna sonora, che per chi non lo conoscesse come nome, è colui che ha scritto Pinocchio, cioè la musica del sceneggiato Pinocchio, certo. Che lì fa, c'è una colonna sonora che veramente è a livelli di Pinocchio, meno famosa, però magari è a livelli così. E allora volevo giusto dire questa cosa qua, perché ci tenevo, visto che mi trovo nella città del mio... Lo salutiamo, se salutiamo, ma certo. Okay. Andiamo col brano. Certo. Rockway, l'onda del rock. Wave, l'onda del rock. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Rock Wave, l'onda del rock. Belle doca. Ah, è vero, è vero. Belle doca. Che cinema. No, parla piano. Parla piano. no, perché cavolo, insomma. Bellissimo. Eh sì. Un'atmosfera particolarissima, che è la prima volta a Rockway che abbiamo un'atmosfera con queste luci, non è mai capitato. Ah, sì? Sì, è una cosa meravigliosa. I saluti da Saturno. su Blu Radio Veneto. Il disco si chiama Parlare con Anna. Ti leggo una recensione di XL di Repubblica, velocissima ma molto significativa. Mirko Mariani crea un album che corrisponde pienamente al nome del gruppo, cioè un francobollo da un altro pianeta. Un'orchestra di atleti sulla strada di un tour organizzato da Jules Verne. Veramente così. È veramente bella. In quattro parole ha descritto tutti i pezzi dell'album. Eh sì. Jules Verne era lo scrittore francese importante. Sì, sì. Che aveva enfatizzato, portato avanti un discorso molto molto per l'epoca. Che sono più bravi a fare le recensioni che io a fare i brani, ne già lette due che sono meglio. No, assolutamente. Sì. Non è male però, no, trovarsi e dire che sono belle le recensioni del disco, tutti che si lamentano perché dicono ma no, il disco è più bello, ma ha fatto una recensione. No, il disco è molto bello, la recensione è come... cioè, disco, no, sono contento positiva. Perché abbiamo avuto una bella, abbiamo fatto un bel gruzzolo di recensioni che è andato molta soddisfazione. L'ultima l'ho vista oggi, me l'ha letta oggi su Buscadero. Anche lì che... direttore te l'ha recensita, Buscadero. Il direttore, sì. Quindi, infatti è molto molto bella anche lì, anche, forse anche delle volte anche un po' esagerate, mi mettono anche un po' in imbarazzo, magari speriamo di essere di non deluderli magari in qualche altro modo, perché insomma vanno giù abbastanza convinti. Adesso, diciamo le comunicazioni di servizio, il vostro sito com'è? Il nostro sito è MySpace, come si dice? MySpace, saluti da Saturno. www.myspace. MySpace su Facebook. Ecco, esattamente. Saluti da Saturno, MySpace. Seguite il link, saluti da Saturno, è su MySpace e su Facebook. Ecco. E una cosa, se ti ricordi, le date prossime che avete. Allora, guarda, suoniamo sabato 20. A Faenza al MEI. All'interno del MEI, però non all'interno del MEI, ma in una festa che fanno nel MEI, un'etichetta in un locale. Mm-hmm. E La Sghisa. Poi Osteria della Sghisa, Faenza. Poi, il 12. A Milano, il 12 al Magnolia, Circolo Magnolia di Milano. Il 18 19 Salerno, il Rocco Festival è un altro posto, non mi ricordo come si chiama. E poi abbiamo il Bronson di Ravenna, 8 gennaio. Sì, dopo non mi ricordo. Le date sono su MySpace. Abbiamo 2-3 date al mese, quello giusto, perché comunque dai, da quarantenni non si può andare troppo a spingere troppo, perché dopo si rischia di... E poi tu hai detto una cosa a me prima di iniziare la trasmissione, se vai al Premio Tenco. Ma guarda, sabato vado al Premio Tempo come batterista con Vinicio. Ascolta, non è ancora. Dovrei andarci quasi sicura, però dobbiamo decidere domani con Jimmy Villotti, perché ecco, che lui è un po' il mio babbo bolognese, diciamo, quello che mi ha tirato su in questi anni. E tanto non si sente più Jimmy Villotti. Ma Jimmy Villotti adesso, sai, lui ha preso la strada del jazz, si è messo a suonare il jazz. Dopo, quando fai jazz, si sente poca roba. E per quello hai deciso di cambiare. Sì, sì, basta. Perché è bello per pochi, ma non per troppo pochi. Poi troppo pochi. Quando suonava con Enrico Rava, com'era il discorso? Ah, Enrico Rava è stata tosta. Ti racconto l'episodio più tremendo. C'era anche l'Anna, tra l'altro, quella sera. Sì. Umbria Jazz, eravamo in un palco dove c'eravamo prima noi con Enrico Rava. Dopo c'era Sonny Rollins e poi c'era Gilberto. Io ero, stavo benissimo, però mentre mangiavo sul palco mi è salita su una febbre pazzesca. Avevo una febbre altissima, tipo 39, una roba che... ma io capivo che era una febbre strana, perché... Certo. Ma non ero... sì, ero emozionato, sì. Però non mi sembrava di essere così emozionato. Ma si vede che la tensione di essere in questi camerini, dove lì vicino a me c'era Sonny Rollins con tutti questi vestiti da africano, capito? Era una roba un po'... era un concerto molto... molto musica africana, c'era molto, sì, molto percussivo, e poi soprattutto c'era già Gilberto, che per me erano anni tremendi, perché insieme tra l'altro a Vinicio ascoltavamo veramente moltissimo Gio Gilberto, Estate di Gio Gilberto, la versione di Gio Gilberto è stato uno dei brani in assoluto che mi ha preso, illuminato, mi di più, anzi sì, è stata anche la colonna sonora del nostro amore tra Melano, il nostro e sicché lì mi ricordo questa esperienza qui, poi ha tante altre esperienze meno febbricitanti, però sempre abbastanza toste, perché con Rava comunque si suonava in maniera forte, e poi lui si rivolgeva molto verso di me sulla batteria, anzi una volta mi fece partire anche un timpano, cioè mi buttò due quelle robe forti quattro mani orecchie, ho avuto per qualche mese che avevo l'orecchio sinistro che era un po'... Un po' così. Era un po' cottarello. Però diciamo che è un'esperienza... Sì, diciamo, i miei maestri, Rico Rava, per la parte, diciamo, più di libertà, Vinicio Capossella magari per creare, essere creativi su delle strutture di canzoni, e Jimmy Villotti magari come babbo artistico. Ma il blues non c'è però nel tuo disco? Blues no. Jimmy Villotti è un po' blues. Jimmy Villotti fa blues, lo chiamano a suonare blues, però non è, lui è rock and roll. È rock and roll. È rock and roll. È più rockabilly. Ho capito. Sì, sì. Dato in prestito al jazz, però lui dentro, come ognuno di noi, c'ha la sua verità, lui la sua vera cosa è il rock and roll. Benissimo. Ok, 23:30, adesso avete deciso, giustamente noi siamo molto contenti, sentire un altro pezzo, La casa mi pare. Facciamo casa. La casa, casa, no, pardon, casa, non la casa. Sì. Casa. Rockway, l'onda del rock. Blue Radio. Blue Radio. Rock Wave. L'onda del rock. E Tammy che facciatelo. Giustamente, si è sentito. Non dico niente. È tutto l'olivo. Sì, sì, tutto dal vivo. Per drammatizzare cerchiamo di fare un po' come dicono a Bologna, gli asini, no? Perché siamo un po' troppo serioni, ma magari qualcuno potrebbe annoiarsi. Noi cerchiamo di fare ogni tanto delle scappate fuori tema per rendere la cosa un pochino più folle, folle. Più folle, più folle. Io ho sentito, non so se Sergio sei d'accordo, sembrava l'Oceano Pacifico questo mare, questa la casa, però no, a me sapeva di Mediterraneo, invece a me di oceano questa casa, giuro, giuro. Poi vedi, ognuno la vede dove, ma tanto le case ci sono dappertutto, ognuno deve prenderla dove più gli piace. Mare sì, però vedi, costa siciliana, io. Questa costa siciliana, diciamo, sì. Che questa casa qua invece è una casa nell'Appennino romagnolo, in mezzo a dei castagni, però ognuno la vede giusta. Però c'è la piscina gonfiabile. C'è la piscina gonfiabile, ecco, forse ti sei fatto ingannare dalla piscina gonfiabile. Ecco, può darsi, sì. Esattamente. Però era molto movimentato, ti faceva cullare, quello sì possiamo dire. Sì, sì, no, la culla c'è sempre, anche perché lo dice proprio nel testo. Una culla per me, da qui all'eternità. Esattamente. La casa. La casa, bello, bello, molto bello, molto significativo. 23:35 e quasi 36, e assolutamente live, assolutamente dal vivo. Con i saluti da Saduno, questo progetto Parlare con Anna, un progetto molto importante, non è il primo progetto, poi ce ne seguirà un altro probabilmente, sempre con questa struttura, Mirko, oppure una struttura diversa? No, la base adesso, diciamo, che si è creata nel cammino della cosa, si è creata, diciamo, un piccolo nucleo che siamo noi tre, sì. Circo Monduzzi, Bruno Rioli e io, che creiamo un po', diciamo, la base di questa orchestra flessibile, e dopo naturalmente attorno, chissà, si svilupperà poi da qui, quando registreremo il disco, chissà cosa succederà, perché già da 5 mesi a sta parte sono venuti fuori 5-6 nomi che si sono stati appiccicati a questo progetto. Poi magari non so quante altre cose possono venire fuori. Siamo aperti, capito? Cioè, la prima regola è proprio quella. Stai studiando sempre ancora degli strumenti inusuali per questa è una specie di malattia. Ah, sì? Sì, che dice sempre l'ultimo è come i giocatori di poker, l'ultima volta, io fumatori, non fumo più, basta, perché l'ultima sigaretta. Invece. Tutte le volte che compro uno strumento dico a mia moglie, guarda, giuro, Anna, però è l'ultimo, eh? Sì. Non ci crede, sì, sicuramente, non ci crede mai. No, non ci, ormai, diciamo che purtroppo, io lo dico sempre, ma ci credo poco anch'io, ci credo. E una cosa, dove scovi questi strumenti? Dove vai in giro? Allora, la cosa più bella è proprio questa, perché tutti pensano che sta roba qua arrivi da chissà dove, da che parte del mondo, invece... Mercatini. Ecco, bravo, qualcuno dei mercatini è successo. Ne ho uno in casa. I primi. Mio padre che va in giro. Ah sì, vedi, ma anch'io sono rigattiere, anch'io ho la passione. Soffitte? Soffitte. Facciamo sgomberi, Mirko Monduzzi mi aiuta a fare sgomberi di cantine. Di cantine soprattutto. No, non è vero. No, però diciamo che veramente gli strumenti che ho, solo uno arriva da eBay, per dire. È una celesta, uno strumento... che è stato usato in Come Foglie, il brano, sì, che è bello, Come Foglie, ripeto. E tutto il resto viene fuori da studi, da poi dove io ho lavorato, magari si è sparsa poi la voce, magari lo stesso Vinicio, che è uno che magari conosce tanti, ogni tanto quando c'è qualche strumento mi dà la soffiata, e, tutti dall'Italia comunque arrivano, non è roba particolare, tutto qui per dire, questo strumento qua, Optigan, sì. Che veramente ormai si sa che sono l'unico a averlo, in Italia non esiste, non esiste più. No. E vi provi dall'Italia, cioè aveva il battista che suonava nei Baustel, anzi un fondatore dei Baustel, è un ragazzo di Reggio Emilia che aveva preso questo strumento e diciamo me l'ha venduto, l'ha preso, non l'ha mai usato, lui l'ha preso però su eBay, diciamo, certo, e me l'ha venduto. Te pensa che l'altro abbiamo suonato sabato scorso a Firenze, c'era un super gruppo con Manonielli e tutta gente molto famosa, e uno di questi qua era John Parrish, che è un produttore inglese. Ha visto questo strumento, ha detto no, ma non ci posso credere. Tu pensa che in tutta Londra e l'altra città che ha detto, qual era? Mirko signore Birkermeier, no, cos'era? Birmingham, non lo sai, in Inghilterra, Bristol. Andiamo per Bristol. Comunque lui faceva questa produzione con questo cantante che assolutamente voleva fare due brani con l'Optica, non sono riusciti a trovarlo. Ah, vedi. E se si rompe? Allora, proprio per, non parolacce, proprio per quello che dicevamo prima, mi sono attrezzato. Ne hai preso un altro? Ne ho due. Grandioso. Anche perché ti dico la sincera verità, è uno strumento che è arrivato dopo, perché lui è arrivato tramite il Mellotron, perché il Mellotron è molto più famoso come strumento. Certo. E tramite il Mellotron ho conosciuto anche lui. Però diciamo che è diventato però far parte veramente della, è diventata un po' la prima donna di tutti, gli strumenti che ho, capito. Come lo conservi gelosamente? Sì, sempre bene coperto, ma non è vero, sono un disgraziato, non ho questa parte purtroppo. Però lo vivi. Lo vivo anche troppo forse, poverino, infatti non fare scherzi perché ogni tanto lo carezzo però lo metto lì dove va, sta lì. Però non hai detto l'origine italiana, cioè dove è nato come strumento? Ah no, lo strumento diciamo è americano. Poi l'ha fatto una ditta che non mi ricordo bene come si chiami, è fallita subito perché ne ha fatti 5 e non interessava nessuno, è fallita subito. E l'ha comprato la Mattel, quello che fa i giochi. Certo. Sì. L'ha costruito lei, senza che, era un po' diverso, era più piccolo, lo chiamava Optigon. È andato avanti ancora per un po' di tempo a farli, però anche lei non ha avuto un gran successo. No, per il motivo per il quale è molto raro come strumento. È un bel suono, un suono particolare. Sì, proprio bello. Ok, 23:40, io direi un altro pezzo dal vivo, cosa dite? Va bene. Facciamo, se ti va, facciamo Luce, che certo. Il brano che chiude il disco. E... Che non chiude la trasmissione. Che non chiude la trasmissione, però ci avviciniamo. Abbiamo ancora un pezzo dal disco, dal CD anche. Ah, prima facciamo CD o... No, facciamo un pezzo dal CD, dai, quindi riposato un secondo. Ok, CD, prego. Rock Wave, l'onda del rock. Come lanterne, cerchia nel buio. Verità, vogliamo guardare in faccia la realtà, è più importante se sto bene io, o il mondo, questo non lo so. Dentro me, cercare dentro me, cercando la deriva, cercando te. Cerco te, io solo cerco te, cercando di far finta di ridere. Le tue mani sono dolci buoni per me, le tue mani sono dolci buoni per me. Vivere adesso senza poter fuggire via, ascoltare l'aria e trasformarla in poesia, perché le stelle sono disposte in cielo, disordinate non lo so. Dentro me, cercare dentro me, cercando la deriva, cercando te. Cerco te, io solo cerco te, cercando di far finta di ridere. Le tue mani sono dolci buoni per me. Le tue mani sono dolci buoni per me. Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Rock Wave, l'onda del rock. Ultimo quarto d'ora insieme ai saluti da Saturno in Rock Wave Live del mercoledì qui su Blu Radio Veneto, insieme, vabbè, a me Sergio per questa volta, diciamo, e a Maurizio Calzavara, al quale passo subito la linea. Maurizio. Sì, mentre il pezzo andava i ragazzi stavano provando, perché è bello così, c'è proprio il feeling, stavano provando il pezzo che adesso andrà, quindi fra qualche secondo. E poi abbiamo deciso di fare un brano proprio dal titolo al disco, della title track, si dice così. Track, ah, che bello, beh, title track. E parlare con Anna, visto che tu hai introdotto prima Le tue mani, che è un brano con la chitarra, visto che noi siamo così, non è che siamo solo l'Optigan, usiamo vari timbri così, e mi piaceva legarci un altro brano che è fatto con le chitarre e parlare con Anna. Lo sentiamo, assolutamente. Ripartiamo. Se potessi io ti darei il mio attico nel cielo a piena aria. Se potessi io riunirei mille forze per portare il mare a casa tua. Ma un giorno tutto quello che vorrai io d'oro te lo regalerei. Ma un giorno tutto quello che vorrai io d'oro te lo regalerei. Senza limiti per un attimo a guardare la luna insieme a te. Come notti che bianche cadono su di me senza te. La strada giusta a tutti i sogni miei. Anna la dolce, ora che sei qui, dammi la mano, camminiamo, camminiamo. Ma un giorno tutto quello che vorrai io d'oro te lo regalerei. Ma un giorno tutto quello che vorrai io d'oro te lo senza limiti per un attimo a guardare la luna insieme a te. Come notti che bianche cadono su di me senza te. Senza limiti per un attimo a guardare la luna insieme a te. Come notti che bianche cadono su di me senza te. L'onda del rock. Maurizio, siamo quasi in chiusura. Sì, bellissimo pezzo, movimentato ma nello stesso tempo dolce e delicato. Una giusta contrapposizione, secondo me. Classe di Mirko. Ecco. Bello. Un po' di movimento leggero, dolce. Cioè, la dolcezza ormai è quello. Te pensa che a me piace solo mangiare roba salata, però nella musica mi piace la roba dolce. Ah, vedi. Questa è una roba strana. decisamente molto molto interessante. La dimensione live acustica, che è la vostra dimensione, ma in parte non è totalmente acustica la vostra dimensione. No, come dicevamo prima, elettromeccanica. Elettromeccanica. Cioè, elettromeccanica, acustica e tutto quello futuristica. E la chiave comunque è una veste, è vestire i brani come le stagioni, però le stagioni del piano bar. Ah, vero. Il piano bar, diciamo che fa parte della nostra musica, perché sempre con il ragazzo che trovo le serate, Cecca, lo sto spingendo, per dire, adesso nell'ultimo dell'anno mi ha confermato che ci fa suonare in un hotel, perché è lì che bisogna... io sento proprio forte questa cosa qua, pensare quanto si sono divertiti Buon Gusto, Bindi, questa gente qua a suonare in questi posti, no? Adesso ho avuto dovuto rispetto, io invidio più loro di un gruppo di adesso altrettanto famoso, perché capito, non so, si crea una situazione più morbida, più rilassata, dove vedrai bene questa cosa qua. Infatti ci piacerebbe riaprire certi locali chiusi per poter andare a fare i nostri concerti. Benissimo. Io proporrei, visto che sono le 23:51, una cosa che dovevo chiederti: ma tu suonavi anche il contrabbasso? Sono diplomato in contrabbasso. Sei diplomato in contrabbasso. Poi, no, poi è successo, sì, è successo che un giorno l'ho messo in soffitta, a proposito delle soffitte, e c'erano le travi, ci caddero dei tarli, e il contrabbasso si è praticamente chiuso su se stesso, e ho deciso, guarda, vuol dire che devo andare così. Tipo quello. E ho tutti gli strumenti del mondo e non ho più il contrabbasso. Perfetto. 23:51, Sergio, cosa dici? Un altro pezzo live? Facciamo un tempo a farne due, chiaramente. Cosa dici? Andiamo col pezzo live, vai. Andiamo di luce. Ok. Ci siamo, eh? Blu Radio. Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Ancora i saluti da Saturno, Maurizio, e tra poco sarà veramente tempo di saluti. Esattamente. Mirko, vorrei chiederti dove si può acquistare il vostro disco, Parlare con Anna? Ma guarda, in tutti i negozi, penso, cioè, a parte... Le migliori salumerie. No, penso che si trovi un po' dappertutto, perché Goodfellas come distribuzione è molto, molto buona, sì, che penso che si trovi un po' dappertutto. Perfetto. E anche su IBS, sui vari portali che vendono CD, anche su web. Mirko Mariani all'organo e tanti altri strumenti, Mirko Monduzzi alla chitarra elettrica e Bruno Orioli alla voce. Stasera siete in tre, però prossima volta magari veniamo in 18. In 18, nel corridoio gli altri ci stanno, li facciamo entrare dentro. Capito? Una orchestra aperta, tu hai detto. Ok, abbiamo finito. Sergio, cosa dici? Dobbiamo concludere, siamo quasi alla conclusione. Sì, mancano 4 minuti alla mezzanotte. Tutto va bene. Bellissimo, è stato un concerto meraviglioso. Grazie di essere venuti qua. Fa piacere, ragazzi, io vi ringrazio veramente. Grazie molto, perché rimarrete nei nostri pensieri per un bel po', perché se abbiamo respirato veramente un'aria molto familiare e siamo andati molto, molto molto bene. È raro trovare degli spazi dove poter esprimersi con la musica, con le parole, in libertà, e questa qui stasera è stata una serata veramente molto bella. Grazie veramente. Anche per noi è stata molto bella, molto positiva. Ricordiamo che la prossima settimana, martedì, avremo un'intervista con Eugenio Bennato, con Flavio Bilato, per presentare il libro di Eugenio Bennato, e mercoledì avremo Massimo Saccarola, che è un musicista di Santa Maria di Sala, qui vicino. Con cosa terminiamo, Mirko? Ma ti farei a questo punto un sottofondo. Un sottofondo di 3-4 minuti, allora. Occia. Eh sì, per finire verso 3-4 minuti. Allora fate un pezzo direttamente, dai. Facciamo un pezzo? Ok. Facciamo un pezzo. Occia però. Non... Cosa potete... Quello... Sai che Capitan Matassi? Ecco, perfetto. Capitan Matassi. Grazie. Non ho il disco. Grazie e buonanotte a tutti. A mercoledì prossimo. A mercoledì. Cemento lanciato contro il tempo e accelerare fumando un po' il rombo di un eco lontano, ritroverò un sogno nel cassetto, ha trasformato in vento per poi volare dove gli va la freccia color argento. Sole, tempesta che vuole decollare, correre, filo di lana che libera matasse, libera, guarda allo specchietto, con zoccoli del vento. Si tiene stretto piegando un po', corre su strade che tra luccio le ginestre vive, bastava chiedere e quello che cercavi qui ora c'è. Se libera, lasciato liberate, il filo di lana lasciato liberate, il filo di lana lasciato liberate.